Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Esistono due luoghi di tormento e questa esistenza di questi due luoghi di tormento è attestata in maniera inequivocabile dalla Sacra Scrittura, che è la parola di Dio. Ora, quando noi diciamo Sacra Scrittura, intendiamo proprio dire Sacra Scrittura, sono gli scritti sacri. Perché? Perché ogni scrittura è ispirata da Dio, cioè alitata da Dio. Da qui appunto il fatto che la Sacra Scrittura è la parola di Dio, non che contiene la parola di Dio, perché sapete che molti in seno alle chiese evangeliche insegnano che la Bibbia non è la parola di Dio, ma contiene la parola di Dio. No, la Bibbia è la parola di Dio in tutte le sue parti. È ispirata da Dio, alitata da Dio. Quindi quando la parola di Dio parla dell'esistenza di qualcosa, noi dobbiamo prestare molta attenzione, perché l'esistenza di quel qualcosa, di quella cosa, è praticamente dichiarata da Dio. Ora, Dio è impossibile che abbia mentito. Il Dio non può mentire. Quindi la sua parola è verace, è fedele, non può mentire. Infatti io in tutti questi anni da che il Signore mi ha salvato posso veramente gridare dai tetti che non ho visto una parte o la sia pur minima parte della Sacra Scrittura cadere a terra. Mai. Ho visto sempre quello di cui parla la Scrittura nella vita di tutti i giorni, nella realtà, negli eventi che si sono susseguiti nella mia vita, negli eventi delle nazioni. Io ho sempre visto la parola di Dio adempersi. Ma perché è la parola di Dio? Quindi, quando la parola di Dio, per esempio, preannuncia determinati eventi, noi sappiamo che quegli eventi avverranno. Perché? Perché sono stati preannunciati da Dio. Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Quando la parola di Dio parla di un evento che è già accaduto, quell'evento è veramente accaduto, perché è Dio che rende testimonianza di quell'evento accaduto. Allora, quando la parola di Dio parla di questi due luoghi di tormento, che noi non vediamo con questi nostri occhi, noi dobbiamo dire amen, cioè dobbiamo dire sì, questi due luoghi esistono. Noi infatti crediamo che questi due luoghi di tormento esistono veramente, non è che sono luoghi simbolici o allegorici o luoghi da spiritualizzare, no, assolutamente, sono due luoghi reali che esistono. Questi due luoghi di tormento si chiamano l'uno Hades e l'altro Geenna. Allora, perché voglio parlare di questi due luoghi di tormento? Perché nelle chiese evangeliche praticamente non pochi negano l'esistenza sia dell'Hades che della Geenna, o fuoco eterno, o stagno ardente di fuoco e di zolfo. Sì, proprio ne negano l'esistenza. D'altronde noi non ci meravigliamo, perché sappiamo che nelle chiese evangeliche ci sono molti massoni. Ora, i massoni sono dei nemici della verità e cercano in tutte le maniere di negare ciò che è scritto. Quindi questa opera massonica che va avanti oramai da molto tempo nelle chiese chiaramente non può che destare preoccupazione e indignazione in coloro che sono da Dio. Ora, noi siamo da Dio, noi conosciamo il Dio, noi crediamo in Dio e nel suo figliolo Gesù Cristo, e noi crediamo in quello che è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha detto e che dice? Perché le sue parole non passeranno mai. Cioè la terra passeranno, sì, ma le parole del nostro Signore Gesù Cristo non passeranno mai. Allora noi crediamo a quello che dice Gesù Cristo. E Gesù Cristo parla proprio di questi due luoghi. E allora guai a coloro che appunto non credono alle parole di Gesù e che con sofismi vari, con ragionamenti vani di svariato genere, cercano appunto di negare quello che ha detto Gesù. Allora, partiamo dall'Hades. Ora, l'Hades è un luogo di tormento che si trova nell'aldilà, dove scendono le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Allora, l'uomo è costituito da l'essere umano è costituito dal corpo, dall'anima e dallo spirito. Quando l'uomo muore, il suo corpo, che è fatto di polvere, torna alla polvere. Lo spirito torna a Dio che l'ha dato, ma l'anima continua a vivere. Continua a vivere in un luogo di tormento per coloro naturalmente che muoiono nei loro peccati, perché naturalmente quelli che muoiono in Cristo, noi sappiamo che hanno una sorte completamente diversa, perché l'anima di coloro che muoiono in Cristo si diparte dal corpo dei credenti e va ad abitare con il Signore nel regno dei cieli o nel paradiso celeste, dove si riposa in maniera cosciente, naturalmente. Però qui naturalmente voglio concentrarmi sulla sorte che aspetta coloro che muoiono nei loro peccati. Allora, in questo luogo chiamato Hades vanno appunto le anime di coloro che muoiono nei loro peccati, cioè le anime dei peccatori. È un luogo di tormento. Perché è un luogo di tormento? Perché c'è il fuoco. Sì, c'è il fuoco. È un fuoco che non è stato attizzato da mano d'uomo, ma è pur sempre fuoco. Un fuoco reale, un vero fuoco. Non come dicono molti, un fuoco allegorico, simbolico. No, no, un vero fuoco. E le anime, quindi, che vi si trovano sono tormentate. Tormentate, perché ci troviamo davanti a un luogo di tormento. Ora Gesù ne ha parlato. Ne ha parlato quando parlò del ricco e Lazzaro, che è una storia, non è una parabola come dicono i bugiardi. Guardate, fratelli, se io in tutti questi anni ho confutato così tante menzogne, è perché nelle chiese evangeliche sono penetrate tante menzogne. Se entravano poche menzogne ne avrei confutate poche, ma siccome che ne sono entrate tante, naturalmente le mie computazioni sono state tante e continuano a essere tante. Allora, molti dicono che si tratta di una parabola che ci insegna determinate cose. No, questa è una storia che ci insegna, sì, tante cose, ma è una storia da prendere alla lettera. Qui non va spiritualizzato, allegorizzato alcunché. Va presa questa storia così, va accettata come Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'ha raccontata. Or v'era un uomo ricco, capitolo 16 di Luca, dal versetto 19, il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente, v'era un povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulcere e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse: ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: no, padre Abramo, va, ma se uno va a loro dai morti, sì, ravvederanno. Ma Abramo rispose: se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse. Allora, l'Ades è un luogo di tormento. In questo luogo di tormento si trovò, ci andò, diciamo, questo uomo ricco, che godeva splendidamente ogni giorno, faceva la bella vita, come si dice oggi. Molti sapete che fanno la bella vita, o la dolce vita, come viene chiamata, no? Si divertono ogni giorno, gozzovigliano, si ubriacano, si danno i piaceri della carne, insomma, sembra che ci abbiano tutto, ma naturalmente sono dei miserabili, sono veramente persone che non hanno nulla, infelici fra tutti, perché appunto sono senza Dio e senza Cristo. E quando muoiono, appunto, muoiono nei loro peccati e se ne vanno nell'Ades. L'Ades è comunemente, diciamo, chiamato inferno. Inferno è una parola che deriva da una parola latina che significa luogo di sotto o inferiore. Ebbene, questo uomo ricco fu seppellito, ricevette, diciamo, quindi un seppellimento, gli fu fatto il funerale si trovò appunto nell'Ades. Quindi l'Ades non è la tomba. Sapete che ci sono quelli che dicono: ma l'Ades è la tomba. No, perché qui c'è scritto che fu seppellito. Allora, morì anche il ricco e fu seppellito. Dove fu seppellito il ricco? Dove fu seppellito il cadavere di quell'uomo ricco? Sicuramente in un sepolcro, in una tomba. Però cosa c'è scritto? E nell'Ades, essendo nei tormenti, quindi l'Ades non poteva essere la tomba nella quale era stato seppellito il suo corpo, no? L'Ades, infatti, è un luogo di tormento nel mondo invisibile, dove appunto va l'anima del peccatore, immediatamente dopo che egli muore. Cosa dice la scrittura? E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Quindi, e parlò naturalmente, ci fu un dialogo tra lui ed Abramo, di cui poi abbiamo visto il finale quale fu. Allora, questo uomo che si trovava nell'Ades disse queste parole: sono tormentato in questa fiamma. Queste parole io non smetterò mai di proclamarle, perché sono, diciamo, è quello che sta avvenendo ancora oggi a quel ricco, o meglio all'anima di quell'uomo. Ancora oggi, pensate, sono passati veramente tanti secoli, eppure ancora oggi dico, quell'uomo è tormentato in quella fiamma, o meglio nel fuoco. Sono tormentato in questa fiamma. E allora, questo uomo disse queste parole ad Abramo, e Abramo confermò che effettivamente nell'Ades le persone sono tormentate. Infatti disse: di Lazzaro disse, ma ora qui egli è consolato, perché Lazzaro si trovava nel seno d'Abramo, però disse: e tu sei tormentato. Ecco cosa disse a quell'uomo: tu sei tormentato. Quindi Abramo confermò che nell'Ades esiste un tormento. E il ricco mentre si trovava nell'Hades, sentì naturalmente il bisogno di essere rinfrescato con dell'acqua. Infatti disse ad Abramo: manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, ma naturalmente questo rinfresco naturalmente gli fu negato, perché lui doveva essere tormentato, lì le anime sono tormentate, non c'è possibilità di alcun rinfresco, di essere rinfrescati dall'acqua nella maniera più assoluta, quello è un luogo di tormento. Ma non solo, diciamo, espresse questo desiderio di avere rinfrescata la sua lingua, ma espresse anche il desiderio che, diciamo, Abramo mandasse Lazzaro a casa di suo padre. Perché? Perché questo uomo aveva 5 fratelli. Aveva 5 fratelli che erano sulla via della perdizione. Infatti, quando gli fece questa richiesta ad Abramo, che cosa disse il ricco? Ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Vedete, si preoccupò quindi della sorte a cui stavano andando incontro quei suoi 5 fratelli, che quindi erano malvagi come lui, ed erano diretti là, anche loro, nell'Hades. Allora, questo uomo pensò che se Lazzaro fosse risuscitato dai morti, fosse andato a riferire a quei 5 uomini come stavano le cose nell'aldilà in merito a suo diciamo a quell'uomo al loro fratello, e chiaramente loro si sarebbero ravveduti. Vedete, era preoccupato. Ora, per essere, diciamo, preoccupato della sorte dei suoi 5 fratelli, vuol dire che in quel luogo stava proprio male, ma stava proprio male. E infatti, disse, sono tormentati in questa fiamma. Quindi, questo uomo desiderava che i suoi fratelli non andassero, con lui in quel luogo di tormento. Vedete come lo chiamò? In questo luogo di tormento. Ma perché lo chiamò luogo di tormento? Perché lui era tormentato. È un posto dove appunto l'anima dell'uomo peccatore è tormentata. Vedete? Poi alla fine, naturalmente, Abramo glielo disse: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse. Ma guardate che la cosa è ancora oggi così. Se, per esempio, un peccatore muore e va, diciamo, all'inferno, e il Signore fa sì che torni in vita, perché naturalmente ha decretato di salvarlo, e quindi gli permette di vedere l'Hades, gli permette di vedere le anime che vi sono tormentate, però appunto lui, il Signore, decide di farlo tornare in vita, quindi di fare tornare l'anima sua nel corpo, e questo uomo comincia a raccontare gli orrori dell'Hades, non gli credono molti. Qualcuno naturalmente gli crederà, quelli che sono ordinati a vita eterna, crederanno. Però, se lui appunto, tornando in vita, si converte e comincia a testimoniare degli orrori che ha visto nell'Hades, crederanno solamente in lui quelli che sono ordinati a vita eterna, non crederanno tutti coloro che sentiranno la sua testimonianza. perché è così, fratelli nel Signore, è così. Sapete, la fede non è qualcosa che praticamente l'uomo si crea. No, no, no, no. La fede la si riceve da Dio. La fede è, diciamo, l'uomo la riceve gratuitamente da Dio, perché il Dio ha decretato di salvarlo. Allora, quando il Dio ha decretato di salvare qualcuno, gli dà la fede. E infatti lo mette in grado di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, affinché egli sia salvato. Ebbene, ci sono state testimonianze di uomini che hanno visto l'Ades, a cui Dio ha permesso di vedere l'Ades, che tornati in vita hanno raccontato la loro, diciamo, testimonianza. Ma chi gli ha creduto? Gli hanno creduto naturalmente quelli che sono da Dio, ma gli altri non gli hanno creduto. È così, c'è molta incredulità ed è veramente una grazia per la quale noi dobbiamo sempre veramente dare gloria a Dio, fratelli nel Signore, il fatto che noi crediamo perché abbiamo la fede degli eletti di Dio e quindi ci gloriamo nel Signore. Dunque esiste questo luogo di tormento. Esiste questo luogo, e in questo momento, mentre io vi sto, diciamo, predicando, non solo stanno scendendo delle, diciamo, anime in questo luogo di tormento, ma ci sono anime che sono lì in quel luogo da molti secoli. Considerate per esempio già solo veramente questo uomo, no, che viene definito un uomo ricco. Cioè, ma da quanti secoli è nell'Ades? Da molti secoli. Cioè, capite? Da molti secoli che lui è tormentato nel fuoco. E allora, bisogna parlare dell'Ades. Bisogna parlare dell'Hades, cioè dell'inferno, sia ai peccatori, a quelli che sono sulla via della perdizione, ma sia anche ai credenti, affinché tutti i credenti sappiano che cosa aspetta coloro che non perseverano fino alla fine nella fede. Affinché tutti sappiano che cosa aspetta coloro che appunto rifiutano di procacciare la santificazione e cominciano a vivere secondo la carne, quindi servendo il peccato, diventando fornicatori, adulteri, omosessuali, ladri, ubriaconi, rapaci, bestemmiatori, oltraggiatori, ingiusti, idolatri, stregoni, omicidi, e insomma c'è tutta una lista, che tutti sappiano qual è la fine che fanno, quindi coloro che si traggono indietro, in altre parole che tutti sappiano qual è la fine che fanno coloro che muoiono dopo essersi tirati indietro. Questa è la fine che fanno. Vanno a raggiungere, per così dire, quell'uomo ricco, là, nell'Hades. Perché quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Gettano via la loro fede, rinnegano il Signore. Ma sappiano anche dove vanno a finire tutti coloro che, avendo creduto nel Signore, dopo a un certo punto si sono messi a servire il peccato, il peccato che li lusinga nell'intimo loro, sì, e per inganno del quale il loro cuore appunto si indurisce. Che sappiano tutti costoro dove sono diretti. all'inferno. E ce ne sono tanti di questi che si siedono domenica dopo domenica nei banchi, nelle sedie dei locali di culto delle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali. Tanti di coloro che si siedono su quelle sedie o non sono mai nati di nuovo perché non hanno mai creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo, o altrimenti un giorno hanno creduto e poi si sono messi a servire il peccato, infatti vivono una vita orrenda, abominevole. Perché? Perché si sono rimessi a servire il peccato dal quale il Signore un giorno li aveva affrancati per la sua grazia. Ebbene, questa è la ragione per cui bisogna che dai pulpiti, ma anche se non c'è un pulpito bisogna fare la stessa cosa, naturalmente io uso l'espressione dal pulpito perché quando mi riferisco ai locali di culto, però sappiate che molte chiese si radunano nelle case dove non c'è un pulpito, eh? Nella maggior parte dei casi nelle case non vengono messi i pulpiti, eh? E naturalmente si deve parlare dovunque la chiesa praticamente si raduna, non importa se in un locale di culto, in una casa, in una tenda, in una grotta o sotto un albero, non importa chi presiede, chi veramente è preposto nel Signore, deve parlare dell'Ades, eh? Perché è molto importante. D'altronde questo luogo di tormento esiste, eh? Non è che è frutto della nostra immaginazione, esiste. Tutti devono essere presi da spavento, dal timore di Dio, e quelli che vivono al servizio del peccato devono essere così spaventati veramente da sentire la spinta da parte di Dio ad andare veramente al Signore per chiedere e ottenere misericordia, eh? Per essere, in altre parole, salvati dai loro peccati e strappati al fuoco dell'Hades, dove loro sono diretti. Devono sentire il fuoco veramente ardere già sotto veramente la sedia o la panca dove loro sono seduti. Devono proprio sentirlo il fuoco. E ora veramente, che veramente in seno alle chiese si parli dell'Hades. Sapete che in molte comunità non si parla proprio dell'Hades, dell'inferno? Ma assolutamente! Ma fratello, ma che ci mettiamo a spaventare la gente? Eh? Ma tu lo sai che se parliamo dell'Hades qui scappano tutti? E lasciateli scappare. Qual è il problema? Il problema è loro, di quelli che scappano, mica di quelli che rimangono. Quelli che rimangono sono nella fede, evidentemente. Quelli che scappano dalla paura, evidentemente, sono sulla via della perdizione e vogliono rimanere sulla via della perdizione. E allora, qual è il problema? Perché crearsi dei problemi? Il problema qual è? Il problema è che se vanno via poi non danno più l'offerta. E manco la decima. Perché sapete che in questi locali di culto la decima viene ordinata. Ah, vabbè, alcuni dicono, no, da noi il pastore non insegna che la decima è obbligatoria, la consiglia. Ma da quando in qua si consiglia il pagamento della decima? La legge mica consiglia il pagamento della decima. La legge ordina il pagamento della decima. Che consiglio è, quindi? E poi se è un consiglio, come mai cita sempre le parole di Malachia, che parlano di coloro che non danno la decima, che sono maledetti? Ma perché lo cita se è un consiglio? Un consiglio non dovrebbe essere seguito da una maledizione per quelli che non seguono il consiglio. E sono tutti sofismi questi qua che usano, questi ciarlatani, questi seduttori di menti per ingannare le persone. Ah, ma io non la impongo, io non la ordino. E poi dicono che la decima appartiene al Signore. Ma allora se la decima appartiene al Signore, guardate come si contraddicono, vuol dire che coloro che non la pagano rubano al Signore, giusto? E se rubano al Signore sono maledetti, giusto? E se sono maledetti non entreranno nel regno di Dio, giusto? Ipocriti, razza di vipere, ma voi chi pensate di poter veramente ingannare? Ma pensate di poter ingannare tutti? Ah, poi è uscita fuori adesso l'ennesimo sofisma. No, ma la decima sotto il Nuovo Testamento non è che è obbligatoria come, diciamo, sotto la legge. Adesso è facoltativa. Adesso è facoltativa. Come facoltativa? Come facoltativa? Ma da quando in qua è diventata facoltativa? Da quando in qua? C'è una legge sulla decima. La Bibbia non dice che sotto la grazia la decima è diventata facoltativa, nel senso che se non la dà è colpito dalla maledizione, se la dà invece è benedetto. No, non è così. Non è così, perché quando si parla della decima, la legge ne parla in termini categorici. Allora questo è l'ennesimo sofisma. È l'ennesimo sofisma per insegnare la decima, ma non associare al mancato pagamento della decima la maledizione. Avete capito che cosa si sono inventati questi servi di Mammona? Dicono: fratello, la decima sì, è un principio biblico, diciamo ancora valido nel Nuovo Testamento. Dalla, sarai benedetto, però se non la dai non ti preoccupare, che non è che Dio ti maledice, capite? Sono tutti sofismi questi che costoro usano perché servono il denaro. Allora voi capite bene che costoro non hanno alcun interesse, appunto proprio perché servono Mammona, non hanno interesse ad avvertire le anime, di avvertire i peccatori da questo luogo orribile, e coloro che un giorno avevano creduto, che invece si sono messi a servire il peccato, sempre da questo luogo orribile, ma nella maniera più assoluta. Ma chi me lo fa fare? Quelli dicono. Ma chi me lo fa fare? Io? Parlare dell'Hades, dell'inferno, del fuoco? Ma qui sarà un fuggi-fuggi se io comincio a parlare dell'inferno. Ma è chiaro il discorso, non vogliono perdere i soldi. Perché voi sapete che oltre la decima viene praticamente fatto passare il cestino delle offerte. Il cestino, il piatto, o un altro contenitore, non importa, che è un'usanza non biblica. Praticamente voi sapete che prima della predicazione o dopo viene fatto passare questo contenitore tra le file dei banchi e viene messo sotto il muso, sì, proprio sotto il muso, di coloro che sono lì, seduti. Voi pensate a tutti quei, magari sono stati invitati, quante volte succede, no? Dai, vieni al culto, gli dicono al vicino o al collega, dai, stasera ti porto al culto, dai, vieni a sentire la parola di Dio, l'ingresso è libero, non ti preoccupare, amico mio. Allora se lo portano al culto, poi arrivano al culto, questi qui, no? E hanno sentito dire che l'ingresso è libero, sono tranquilli, allora, no? Si sentono tranquilli, poi si siedono, a un certo punto arriva questo che gli mette il cestino praticamente davanti al muso, e questo naturalmente è pieno di imbarazzo, si domanda tra sé, ma dove mi ha portato questo qua? Ma dove mi ha portato? Anche qui chiedono soldi? Ma anche qui chiedono soldi? Allora, ripeto per l'ennesima volta, lasciate perdere il cestino delle offerte. Le offerte vanno raccolte, sì, naturalmente per il progresso dell'Evangelo, anche per le spese che si devono affrontare, la comunità deve affrontare naturalmente, se prende un locale, dovesse prendere un locale di culto in affitto, la cosa buona da fare è radunarsi nelle case, però ci sono quelli che hanno questa idea del locale di culto a tutti i costi, hanno questa idea del locale di culto, e allora naturalmente devo parlare anche in questi termini per spiegare le cose a quelli che ancora sono legati al locale di culto, perché anche nei locali di culto ci sono i nostri fratelli, E quindi chiaramente gli devo spiegare anche questo, in attesa che lasciano perdere i locali di culto e che si radunano nelle case. Comunque, fino a che appunto staranno in questi locali di culto a fare il culto, io vi esorto a non essere d'intoppo a nessuno, non fate passare alcun contenitore per la raccolta delle offerte in mezzo alle sedie o in mezzo alle panche. Chiedete a Dio sapienza, intelligenza sul come fare, farlo in maniera discreta, senza dare all'occhio, per non creare disagio, imbarazzo e scandalo, per non essere d'intoppo a nessuno. Quindi, vi volevo dire appunto che una delle ragioni è questa, no? Quella appunto di la paura di spaventare l'uditorio e che appunto poi chiaramente vengano a mancare le entrate. Ma un'altra ragione è perché non ci credono. La verità è questa, fratelli. Molti che si definiscono pastori non credono nell'esistenza dell'inferno, dell'Hades, cioè. Non ci credono. E se alcuni ci credono, dicono che il fuoco che c'è è un fuoco simbolico, per cui figurati, a chi mette paura un inferno senza fuoco? Ma a chi mette paura un inferno senza fuoco? L'inferno mette paura proprio perché c'è il fuoco. Avete capito? Questi qua allora che hanno fatto? Questi hanno tolto, diciamo per così dire, il fuoco dall'inferno. No, ma il fuoco è ancora là. Il fuoco è ancora là. È là, nell'Hades. Arde questo fuoco e coloro che vi si trovano sono tormentati in mezzo a quel fuoco. Quindi bisogna che appunto coloro che sono preposti nel Signore facciano ben presente al mondo, quando predicano l'Evangelo al mondo, facciano ben presente qual è la fine che aspetta coloro che rifiutano di ravvedersi e di credere nell'Evangelo di Dio. E questa è la fine. Quando muoiono, scendono nell'Hades per esservi tormentati. Ma, come vi dicevo, oltre all'Hades c'è anche un altro luogo di tormento che appunto è chiamato Geenna, e Gesù ha parlato anche di questo luogo di tormento. Capitolo 9 di Marco, leggiamo, queste sono parole di Gesù a partire dal versetto 43, e se la tua mano ti fa intoppare, mozzala, meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo, meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo, meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Allora, questo luogo, appunto, quest'altro luogo di tormento si chiama Geenna, o fuoco eterno, perché il fuoco è eterno, non si spegne. Allora, questo luogo si chiama anche stagno ardente di fuoco e di zolfo. E vi saranno gettati in quel giorno, nel giorno cioè del giudizio, tutti coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita. Allora, essi risorgeranno in, diciamo, risurrezione di giudizio e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, appunto perché il loro nome non sarà trovato scritto nel libro della vita. Quindi, che cosa avverrà? Avverrà che i peccatori che risusciteranno praticamente lasceranno l'Hades, nel senso che l'anima loro si ricongiungerà con il loro corpo, perché di resurrezione si tratterà, ma si tratterà di una resurrezione a giudizio, a condanna, perché risusciteranno per essere condannati. Infatti compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Quindi, in questo altro luogo di tormento, i peccatori saranno gettati anche con il corpo, appunto perché diciamo, questo avverrà dopo che appunto essi risusciteranno. E nel libro dell'Apocalisse viene fatta una lista di coloro che, appunto, la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Al capitolo 21, infatti, dell'Apocalisse, versetto 28, dice il Signore Dio: ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Quindi, fratelli nel Signore, la sorte che aspetta i peccatori è terribile, e tra i peccatori naturalmente ci metto anche coloro che hanno creduto per un tempo, che praticamente dopo aver creduto per un certo tempo si traggono, diciamo, indietro a loro perdizione, capite? Allora, la sorte di costoro è terribile, perché poi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo vi saranno tormentati nei secoli dei secoli. Considerate che in questo luogo di tormento, cioè nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, saranno gettati anche prima il falso profeta, la bestia e il falso profeta saranno gettati lì. E poi vi ricordo che vi sarà gettato anche il diavolo, questo alla fine del millennio. Pensate che il diavolo sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Cioè, guardate che è una cosa meravigliosa questa. Il diavolo, il principe di questo mondo, il seduttore di tutto il mondo, viene il giorno in cui sarà gettato in questo luogo di tormento. Infatti si legge nel capitolo 20 dell'Apocalisse, al versetto 10, il diavolo che l'aveva sedotto, questo dopo il millennio, quando il diavolo sarà sciolto e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra. Allora dice così, e il diavolo che li aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Allora, dopo mille anni la bestia e il falso profeta sono ancora lì, e lo stagno ardente di fuoco e di zolfo accoglierà alla fine di questi mille anni, quindi, anche il diavolo. E poi a seguire coloro che, appunto, la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e zolfo, la cui lista, diciamo, l'ho letta poco fa. Vi voglio fare notare questo: se dopo mille anni la bestia e il falso profeta sono ancora nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, perché voi sapete che quando Gesù tornerà, la bestia e il falso profeta saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, così c'è scritto. Dice così: ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Allora, questo significa che coloro che vi vengono gettati non è che saranno consumati, annichiliti, non è che torneranno alla non esistenza, perché esiste questa falsa dottrina dell'annichilimento dei malvagi, secondo cui, appunto, poi, diciamo, viene il giorno in cui i malvagi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, ma non per esservi tormentati per sempre, no, ma per esservi consumati, quindi praticamente per essere annichiliti, annientati e per tornare alla non esistenza. Eh no, perché dice la scrittura, saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Quindi al bando questa menzogna dell'annichilimento dei malvagi. State molto attenti, perché sin dall'inizio, dal suo sorgere nel movimento pentecostale, questa falsa dottrina si insinuò. Si insinuò. Quindi badate a voi stessi affinché non rimaniate sedotti da coloro che, appunto, insegnano l'annichilimento, chiamata la dottrina dell'annichilimento dei malvagi. Quindi tutti costoro, i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, gli idolatri, tutti i bugiardi, praticamente saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Naturalmente questa lista vale anche per coloro che scendono nell'Hades, perché nell'Hades, è chiaro, scendono i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. Sia chiaro questo, Quindi è di fondamentale importanza ricordare qual è la sorte, diciamo, eterna che aspetta costoro, perché è terribile. Ma capite, nei secoli dei secoli, cosa significa? Per sempre, cioè mentre i giusti, mentre i santi, no, vivranno con il Signore nei secoli dei secoli, una cosa meravigliosa questa, cioè gli empi saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli in questo luogo di tormento, dove avete notato? Ci saranno anche tutti i bugiardi. Quanti bugiardi che ci sono. Ne avete conosciuti voi di bugiardi? Io ne ho conosciuti. Alcuni sono tremendi. Alcuni sono tremendi. Sono capaci di inventarsi veramente le cose più assurde contro di te. Ma proprio, cioè, se sei bianco dicono che sei nero. Cioè, per farvi capire. Se stai camminando dicono che sei caduto, se sei sulla via della salvezza ti dicono che sei sviato, cioè delle cose proprio assurde, servi Dio e ti dicono che servi Mammona, predichi l'Evangelo e ti dicono che insegni la dottrina di Dio e confuti le false dottrine e ti dicono che insegni eresie di perdizione, cioè guardate fratelli del Signore, ma veramente... Ci sono veramente dei soggetti che fanno orrore quando parlano, orrore. Tante sono le bugie che dicono, sono progenie della menzogna, figli del diavolo, progenie del diavolo che è il padre loro, il padrone loro, che è bugiardo e padre della menzogna, perché solamente la progenie del diavolo, gente che fa parte della progenie del diavolo, può inventarsi queste cose, perché sono letteralmente invenzioni, infatti sono delle bugie, le bugie non possono essere dimostrate, non ci sono le prove per dimostrare le bugie, le bugie sono bugie, per dimostrare la verità sì ci sono le prove, ma le bugie non possono essere dimostrate. Certo, qualcuno può addurre false prove, ma quello siamo sempre nel campo della menzogna però, cioè voglio dire, cioè una falsa affermazione viene suffragata da false prove, vabbè, sempre nel campo della menzogna, però non ci sono vere prove, capite? Ebbene, ci sono tanti bugiardi anche in mezzo a coloro che si definiscono cristiani evangelici, e gente che non riesce a dire la verità, sapete perché? Perché amano e praticano la menzogna, amano, sapete ci sono coloro che amano la verità e la praticano, però ci sono anche coloro che amano la menzogna e la praticano, la amano, sapete quando c'è l'amore per qualcosa, no? Prendete per esempio un marito che ama la moglie, no? O la moglie che ama il marito, no? Due si sposano perché si amano, no? Almeno in linea generale è quello che avviene, no? Due perché si sposano? Noi sappiamo che i due si sposano perché si amano. Ebbene, quando c'è l'amore, si vede, eh? Ecco. Allora io vi dico una cosa, ma quando c'è l'amore per la verità, ma si vede questo amore? Certo che si vede, è come se si vede, però si vede anche l'amore per la menzogna, è come se si vede l'amore per la menzogna, e allora vedete, ci sono quelli che amano e praticano la menzogna, e sono appunto destinati ad andare nello stagno, a denti di fuoco e zolfo, dove saranno tormentati nei secoli e secoli. Poi ce ne avranno di tempo per ricordarsi tutte le menzogne che si sono inventati. Eh? E noi a dire, guardate che ciò è falso, guardate che questi sono bugiardi. E non ci credevano a noi, no? E poi però, arriverà il giorno, appunto, già questi immediatamente dopo morti se ne scendono nell'Ades, e poi in quel giorno saranno gettati nello stagno a denti di fuoco e zolfo. Questo per dire, sapete perché? Perché il dire menzogne, l'attestare il falso contro il prossimo è uno dei peccati più diffusi in ambito evangelico. Una volta io pensavo che la menzogna fosse molto diffusa nella Chiesa Cattolica Romana. Attenzione, no, è molto diffusa nella Chiesa Cattolica Romana perché dovete capire che secondo il catechismo della Chiesa Cattolica Romana si possono dire delle bugie, bugie bianche. Ma però il fatto è che anche nelle chiese evangeliche si possono dire bugie bianche, così le chiamano. Infatti le denominazioni evangeliche sono piene di bugiardi, gente che mente, ma mente sapendo di mentire. Beh, loro dicono a fin di bene, ma sempre menzogne si tratta, di menzogne si tratta. Capite? Allora, l'ambiente denominazionale evangelico è pieno di bugiardi. È raro trovare qualcuno che ti dice la verità, che ama la verità. Io l'ho sperimentato, noi lo abbiamo visto, quindi state molto attenti, esistono anche molti bugiardi. E quindi è bene avvertire anche in questo, diciamo, caso, sia i peccatori e sia naturalmente coloro che, voglio dire, sono sempre peccatori, però un tempo hanno creduto e poi praticamente si sono tratti indietro o altrimenti si sono rimessi a servire il peccato. Sono tutti e due accomunati dal fatto che servono il peccato. La differenza è che, appunto, gli uni non hanno mai, ci sono quelli che non hanno mai creduto, e quindi non hanno mai sperimentato la salvezza dal peccato, mentre ci sono altri che un giorno hanno sperimentato la salvezza dal peccato, ma poi dopo si sono rimessi a servire il peccato. E tutti e due, naturalmente, sono accomunati dalla stessa sorte. Dalla stessa sorte. Se ne andranno nello stagno ardente di fuoco e zolfo, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Quindi bisogna avvertire, bisogna parlare anche del fuoco eterno, della Geenna, dello stagno ardente di fuoco e zolfo. Bisogna parlare di questo luogo, bisogna parlarne, perché esiste. È vero che ancora ci deve essere buttato dentro sia la bestia che il falso profeta, è vero che ancora ci deve essere buttato dentro il diavolo, poi peraltro anche gli angeli del diavolo saranno gettati in questo luogo, perché il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli, ricordatevelo. Ma poi è anche vero che ancora devono esservi gettati codardi, increduli e così via, però esiste questo luogo, esiste, capite? Allora noi dobbiamo parlare di ciò che esiste, e l'Hades e la Geenna esistono, sono luoghi reali. State attenti a quelli che dicono l'inferno è uno stato dell'anima. Ma qual è stato dell'anima? Per negare appunto l'esistenza di un luogo reale, no? Fanno tutti questi discorsi filosofici, l'inferno è sulla terra. L'inferno sulla terra, chi l'ha visto l'inferno sulla terra? Cioè, voglio dire, si inventano tutte queste espressioni per negare poi appunto l'esistenza di questo luogo appunto chiamato Hades nell'aldilà. Ma quale inferno? Ma il vostro Dio allora manda le anime all'inferno? Il nostro Dio è giusto. Nostro Dio ha parlato tramite il suo figliolo Gesù Cristo e ha detto: chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi tu, peccatore, tu sei avvertito. Se rifiuterai di credere nell'Evangelo della grazia di Dio, sarai condannato. Quindi quando morirai, tu non te ne andrai in cielo, in paradiso, come ti hanno detto dei bugiardi, no, te ne andrai nell'Ades. In questo luogo di tormento, sì, nell'Hades te ne andrai. Poi in quel giorno, quando risorgerai in risurrezione di giudizio, sarai gettato nell'altro luogo di tormento, la Geenna, il fuoco eterno, e là sarai tormentato nei secoli dei secoli. Quindi io ti ho avvertito, non credere a quelli che ti dicono le menzogne, credi a chi ti dice la verità di Dio, che è in Cristo Gesù. Quindi, fratelli e sorelle nel Signore, è giusto, nel cospetto di Dio, parlare, è giusto che coloro che sono preposti nel Signore parlino sia dell'Hades che della Geenna. C'è tanto bisogno in mezzo a questo mondo di tenebre, in mezzo a questa generazione storta e perversa. C'è bisogno perché bisogna avvertire coloro che sono sotto il peccato dell'orribile fine a cui appunto andranno incontro se persevereranno nella loro incredulità, se continueranno a servire il peccato. Bisogna dirlo chiaramente a coloro che sono sotto il peccato: ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Questo bisogna, altrimenti perirete, perirete, perirete, bisogna dirglielo. Bisogna dirglielo. E noi glielo diciamo. E per questo siamo odiati. Perché? Perché diciamo ai peccatori la verità. Quando a noi comunque non importa se siamo odiati, noi vogliamo dire la verità, perché è la verità di Dio, è la parola di Dio che non cambia, che rimane salda nel tempo. Ah, come rimane salda la parola di Dio, stabile proprio. E chi può veramente sconvolgere ciò che Dio ha decretato? Chi? Nessuno. Dio ha decretato dunque, ha decretato dove andranno i peccatori quando moriranno e anche poi naturalmente quando risorgeranno in resurrezione di condanna. Quindi di questi due luoghi di tormento bisogna che coloro che sono preposti nel Signore ne parlino. Lo ripeto. Parlatene perché fa bene parlarne. Fa bene perché coloro che veramente poi il Signore visiterà si sentiranno attratti a Cristo, al Salvatore, al Signore, per essere salvati dai loro peccati, giustificati, perdonati, per ottenere la vita eterna in Cristo Gesù. Fratelli nel Signore, ho voluto ricordarvi appunto queste cose che voi sapete e ho ritenuto ricordarvele perché è giusto che io ve le ricordi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.